Lupo Nair, Summersburgo. Caspiterina, è di nuovo giovedì e voi avete ascoltato il primo brano di questa puntata di Lupo Nair Summersburgo, episodio 7 di questa edizione estiva del nostro programma radio Lupo Nair, che di solito conduco io, Vanni e Flamì, che però adesso sta a fare l'estate in colonia penale. L'abbiamo ascoltato con un suo saluto all'inizio di questa trasmissione, e invece adesso abbiamo ascoltato i Rue Oberkampf, una band di Cemania, di Monaco Cemania, che esiste dal 2016, composta da 3 DJ, quindi gente che sa di cosa si sta parlando. Questo era il loro nuovo singolo, Deine Augen, i tuoi occhi, quel poco di tedesco che so, eccolo qua. È finito, e adesso parliamo invece in arabo. Arabo perché andiamo ad ascoltare i Hal Namrod, che vuol dire il miscredente. con una band, non è che lo so, l'ho letto qua su Metal Archives, è una band dell'Arabia Saudita che è incredibile, una band black metal dell'Arabia Saudita, pertanto non fa riferimenti a Satana, men che meno a Odino, bensì ai dei pre-islamici della loro area geografica. Sono arrivati ormai al traguardo del nono album senza mai essere decapitati, e quindi è un grandissimo traguardo. E dall'ultimo album, Al-Aqrab, che vuol dire non ne ho idea, ascoltiamo il brano Lisan Al-Nar, che casualmente anche io di questo non ho idea di cosa significhi. Lisan Al-Nar, essi sono gli Al-Namrod. Poner Sammerspurgo. Yeah. und tot, giovane e morto, e questo è il titolo di questo brano dei Verrotted. Verrotted è una woman band dalla Germania, anche questo, perché casualmente questo genere musicale viene solamente da quelle parti là, dall'area della Ruhr. Peter Panic è il titolare di questo nuovo progetto, che è stato così apprezzato da essere selezionato immediatamente per suonare al prossimo IBM Warm Up di Lipsia al Festival del Wave Gothic Treffen del 2025, come se per voi fosse importante. Jung und Tod, costui era Verrotted, e ora passiamo a tutt'altro ascoltandoci Agostino Isca. Agostino Isca, voi non sapete nemmeno chi sia, lo so, però molti lo conoscono come un medico. Ce ne frega? No, perché noi stiamo benissimo. Tuttavia, il signore qua presente ha anche fatto della musica ispirata al mondo dei videogame. E la Aventino Music, con l'etichetta Campana, ha prodotto questo album intitolato Warpath, composto da Agostino Isca, ispirato al videogame Crysis, che io non so nemmeno cos'è, perché io non gioco, ma io sono una persona serissima, io non gioco. Per cui, niente, ascoltiamo un brano di questo Warpath di Agostino Isca, intitolato No More Chances, Nessuna Possibilità Più. Luponer, Sammerspurgo. Holy Talks, Ladyboy, Vernissage. Sechstandard im Mittelstand, Cholera. Bergtaucher, Cardio, Kaffeekranz. Kastenschutz, Gentrifi, Sicherheit. Magenkrampf, Wadenkrampf, Stenograf. Autofahren, überfahren, Kamera. Ein letztes Mal dreh dich jetzt weiter so. Ein letztes Mal dreh dich jetzt. Kappe zu, abgedreht, weiter so. Kappe zu, abgedreht. lo sapete ormai a cosa serve chiedere nelle micro interviste alle band di consigliarci qualcosa che non abbiamo mai ascoltato. Serve a scoprire band assolutamente sconosciute come gli Stammtisch Fruitvelle di Wuppertal, Germania, che se non me li avesse consigliati Les Days of Burden, che me l'ha consigliati di Töden, non l'avrei mai ascoltato effettivamente. Entleuchtet, che non ho idea che vuol dire, è il titolo dell'album, e il brano che abbiamo ascoltato invece era Unten. Ora passiamo alla musica nostrana, ma prima un sorso di caffè. Un sorsone di caffettone. Passiamo alla musica nostrana con il mio concittadino, non proprio vicino di casa, ma quasi, David Fabretti, che è lui musicista multistrumentista, suona il basso nei Nadis, che è una boy band canadese, suonava in diverse formazioni in passato, tra i quali anche i ricordo i Telemach con il fratello Francesco, che è il mio coetaneo, quindi vecchissimo. Invece Davide è molto più giovane e ha pubblicato niente perché è molto timido, però in realtà dentro casa sua c'ha cassetti e cassetti pieni di album e brani. Uno ce l'ha dato in pasto di recente, si intitola Danza del Crollo ed è questo che ascoltiamo ora. David Fabretti, Danza del Crollo. Cadono, orse polari brillano, stelle maggiori scintillano, poi scivolano via. E se mi nascondo unico, in bilico, la danza del crollo energetico, precipito. Summerspurgo. Hey. Ci hanno fatto aspettare anni e anni per avere un nuovo album, questi Ashbury Heights da Sundsvall, Svezia. E finalmente ce l'abbiamo fatta ad avere Ghost House Sessions volume 1, però in pratica è un doppio perché è gigantesco, ci sono brani presi da anni di pausa e raccoglie molti singoli in realtà che erano già stati pubblicati nei mesi precedenti. Questo che abbiamo ascoltato per esempio era Tunguska featuring Corlix, una band di Brighton che fa synth pop, gran bel pezzo, però era uscito nel 2023 ad agosto, ma adesso è agosto, è 2024, ma noi l'abbiamo ascoltato adesso perché adesso che è uscita questa cacchio di raccolta di Ashbury Heights. Ghost House Sessions, andatela a comprare se voi avete soldi a spendere. In alternativa potreste comprare i dischi di Alexander Donat. della Black Jack Illuminist, nonché Vlimmer, Assassin, Fear Con Children. È uno che fa tipo due album al mese. Questo è un nuovo progetto, un altro nuovo progetto intitolato chiamato Hall, insieme a Thomas Schernikau dei Forced to Mode, che a occhio mi sa che è una tribute band dei Depeche Mode, poverini. E comunque questi Hall hanno pubblicato da poco un album intitolato Hydra, e da quest'album abbiamo ascoltiamo ora il brano Dead Deer, cervo morto, gli Hall. Summerspurgo. Like it's sensing, mammy. There's something in it. Just when you start to sink into it. Like it's sensing, mammy. There's nothing to it. Just when you start to sink Questo è il titolo di questo brano dei Drahla, una post-punk band col sax da Leeds, UK, Regno Unito, il cui ultimo album intitolato Angel Tape abbiamo appunto ascoltato questo brano intitolato Lip Sync. È stato bello, vero? Bene, sono contento, vi siete divertiti. Adesso è il momento del un po' di tristezza con, ma no, non è vero tristezza, perché si parla di goth rock, ma in realtà è goth pop, questo dei Magic Wands da Los Angeles, California, prodotti da sussidiari della Metropolis Records. Andiamo ad ascoltarci il loro ultimissimo singolo fresco, uscito veramente pochi giorni fa, intitolato Hide. Loro sono i Magic Wands. Oh, Il metallo, un po' di heavy metal classico e chi meglio dei Warlord poteva proporceli? Dagli Stati Uniti, misteriosissima band che va avanti dal 1980, un raro esempio di metal cristiano per giunta, capitanata dal batterista Mark Zonder, che però è decisamente il padrone di casa, e ha da poco pubblicato un album nuovo, ma proprio nuovo nuovo, intitolato Free Spirit Soul, e da questo album abbiamo ascoltato il brano The Rider. Il cavalcatore e cavalca che ti cavalca, siamo arrivati alla fine di questa, di questo settimo episodio di Lupo Nero Summersburgo e concludiamo con un brano dei Lipcritic. Lipcritic sono electro post punk, chiamiamolo così, da New York. Sono contenti per farsi sfilata i Lipcritic dal loro album Hex Dealer. Andiamo a Hex come strega, non come fu Hex Dealer. Ascoltiamo il brano Milky Walk, Mickey Max, Milky Max. E niente, noi forse, se ci arriviamo vivi, ci risentiamo giovedì prossimo. Guai. Summersburgo.